18 minuti e 20 secondi. Questa, care ascoltatrici e cari ascoltatori, è la terza parte di 24 mattino, giovedì 12 novembre. Al microfono sempre Simone Spezia. Parleremo alle 8.35 della vicenda autostrade, lo faremo col vice ministro alle infrastrutture del Movimento 5 Stelle, Cancelleri, e poi torneremo sui temi della pandemia, anche chiedendoci un po' se questi ultimi dati che stiamo vedendo, questa stabilizzazione dei ricoveri in terapia intensiva, stabilizzazione della crescita, ben inteso, e dei contagi, qualcosa ci può far ben sperare, oppure no. 800 24 00 24, se volete intervenire in diretta, 349 238 6666 per i vostri WhatsApp audio, WhatsApp, messaggi SMS, tutto quello che volete. È il momento di fare un punto di giornata con il nostro Paolo Mieli. Paolo, io ho già in mente qualcosa, buongiorno. Buongiorno. Lo so, oggi è partita facile. È facile. Vai. Sentiamo Conte. Posso senz'altro dire che per quanto mi riguarda nulla è cambiato. C'è una procedura di revoca, di caducazione della concessione in corso. Ho già dichiarato pubblicamente che per quanto è mi così, riguarda è sono così, è la caducazione, la nostra amata caducazione, dopo l'inchiesta che ieri ha portato agli arresti, tra l'altro, dell'ex amministratore delegato di Autostrade Castellucci per una vicenda diversa, è la vicenda delle barriere antirumore messe male, incollate male, non a norma, però è chiaro, Paolo, che l'attenzione è tutta concentrata sulla revoca della concessione ad Autostrade. Sì, chi ci rimette sono i Benetton. Vedo che Di Battista dice: io li disprezzo, e Boccia annuncia: il tempo è scaduto, il governo revocherà la concessione. Ci risiamo alla caducazione. Guarda, mi arrendo, i giornali sono pieni di biografie di Castellucci, chiamano in causa Giancarlo Elia Valori, Vito Gamberale, i suoi protettori, insomma sono tutti da leggere. Mi arrendo, ma fino a un certo punto, perché è vero, forse questa volta si arriva alla caducazione, però hai avuto bisogno dei giudici, delle intercettazioni telefoniche. La politica, il governo, non aveva risolto nulla, stava continuando a rimbalzare da un anno e mezzo, quasi, insomma ci avviavamo verso i 2 anni, e come al solito in Italia, finché non intervengono giudici e intercettazioni telefoniche che, come tu hai molto molto molto opportunamente sottolineato, non hanno niente a che fare col crollo del ponte Morandi, sono cose che erano appiccicate malamente, quelle barriere che servono a impedire i suoni, il rimbalzo dei suoni fra l'autostrada e le case limitrofe, che probabilmente, come dicono le intercettazioni, erano attaccate col Vinavil, cioè, però non hanno provocato che risulti morti, e comunque non hanno niente a che fare col crollo del ponte, e quindi alcune intercettazioni telefoniche relative ad altre vicende e l'arresto ai domiciliari di un tipo, Castellucci, che peraltro è fuori dalle autostrade da oltre un anno, insomma non avrebbe nessuna possibilità di inquinare le prove. Guarda, faccio il garantista di proposito, come faccio il garantista anche perché oggi i giornali riportano la notizia che Ingroia, l'ex giudice, l'ex pubblico ministero Ingroia, è stato condannato 1 anno e 10 mesi perché si sarebbe appropriato di indennità non dovute, tutti sghignazzano. Ma vorrei ricordare che anche questa è una condanna in prima istanza, e quindi bisogna essere garantisti con tutti, anche fino con coloro fondo, che forse a suo tempo non lo furono. E quindi hai vita facile, io mi ritiro da questo discorso sulla caducazione. Però ti ci sai mettere quando vedi, ho parlato con la procura di Genova, io ho detto aiutatemi, tra l'altro tra poco appunto avremo ospite il viceministro Cancelleri, vediamo se riesco a farmi dare un'altra scadenza, una nuova scadenza per l'accordo tra magari Atlantia e il governo. Se ti fai dare un'altra scadenza ci campiamo per i prossimi mesi, sì, insomma, sì, di qui alla scadenza. Sì, sicuramente. Senti, vai. Però la notizia del giorno, se non ci fosse stata questa, sarebbero state due. Una, tu hai accennato, è che i virologi sono rassicuranti, soprattutto quelli del Comitato Tecnico Scientifico, dicono che la curva si attenua, sembra che ci siano, no, ci sono moltissimi morti, così, però effettivamente, questo lo dobbiamo riconoscere, non si sta proiettando che ogni settimana sono il doppio della precedente. E nel frattempo la cosa che più mi ha entusiasmato, lo dico fra virgolette, è un titolo a tutta pagina del Messaggero in cui il direttore scientifico dello Spallanzani, conosciuto dal pubblico televisivo Giuseppe Ippolito, si porta avanti e dice: guardate che a Natale parte la terza ondata e adesso la terza ondata sarà a febbraio-marzo, cioè non è ancora finita il la peggio, seconda. Dice il peggio arriverà a febbraio-marzo. Professor Ippolito, la prego. Allora io direi, questi virologi, i virologi sono, per virologi si intendono anche quelli che virologi non sono, noi li chiamiamo virologi, sì, come chiamavamo giudici tutti i magistrati, anche se giudici non erano. Attenti, perché c'è un bellissimo libro di Ennio Flaiano, di una cinquantina, forse più di anni fa, si chiamava Un marziano a Roma, in cui un marziano arriva a Roma, tutti lo accolgono, sono entusiasti, vogliono parlare col marziano, poi finisce, dopo che è stato spremuto come un limone, finisce che lo salutano con una pernacchia. Ecco, questo è una tipica storia italiana che i virologi ne stanno dicendo di tutti i colori. Oggi dibattono sul fatto che a Bitonto una barboncina ha contagiato i padroni, è stata contagiata dai padroni, quindi anche le barboncine, anche i cani portano il virus. C'è un eccesso da virologi in TV o da virologi sui giornali che rischia di ritorcersi contro i virologi medesimi. Poi Arcuri è l'altro grande personaggio del giorno, perché gli hanno affidato il prossimo, la gestione dei vaccini anti-Covid che arriveranno. I giornali di destra sono selvaggi, ci arriva il vaccino a rotelle, sì, perché ricordano il famoso flop dei banchi a rotelle, altri ricordano il flop dell'app Immuni e insomma, che dire, anche Arcuri prende troppi incarichi. Putin è incavolato nero perché dice: oh, ma il vaccino americano dal 90%, il mio ha il 92% di efficacia e nessuno se lo fila. Nel frattempo la campagna sprofonda, è stato trovato un morto di Covid nell'ospedale, in un bagno dell'ospedale Cardarelli, è una vera tristezza. Sì, si sa che è morto, non si sa esattamente se, non si sa esattamente se è morto di Covid. Sì, lo so. Sì. No, era contagiato, a quel che ho letto sul giornale, contagiato di Covid, è morto in bagno, forse per altri motivi. E poi c'è la coda meridionale. Giuseppe Tiani, quel tipo del pendolo che diceva di avere un pendolo di guarigione in Puglia, si è dovuto dimettere, ma non si dimette Zuccatelli, anche Zuccatelli è quello calabrese, quello che il contagio si trasmette solo con lingua a lingua per 15 minuti, di cui hanno pubblicato un nuovo video che se la prende appunto con i virologi. Dice che i virologi sono dei medici, adesso lo dico io, di serie B, nel senso che nessuno se li sarebbe mai filati rispetto agli altri medici maggiori, e sono, questo è testuale invece, la coda della coda della coda, e li deride e sghignazza. Il PD, cioè l'EU, lo sostiene, quindi rimane al suo posto. Ricordatevi sempre che va in politica l'EU è un baluardo sì, possiamo stare tranquilli. Paolo, però sulla Calabria c'è anche questa storia della quale parliamo da giorni, di Gino Strada, che si sta ipotizzando l'arrivo di Gino Strada. Ho ieri una tirata pazzesca del presidente della regione Spirlì contro Gino Strada e in generale contro i non autoctoni, sentiamolo. Ma cosa c'entra Gino Strada? La Calabria è una regione dell'Italia, non abbiamo bisogno di medici missionari africani, non ne abbiamo necessità. Noi abbiamo bisogno che in Calabria, dove ci sono fior di professori, fior di rettori, si cerchi qui chi si deve occupare della sanità calabrese. Non abbiamo bisogno di essere schiavizzati nella nostra sanità. Ora basta, è una vergogna che il governo deve mettere fine. Schiavizzati, eh. Oh, se non l'hanno data ad un calabrese, la sanità calabrese è un motivo c'è comunque. li chiamano missionari africani. Del resto, che io sappia, però, a parte Gino Strada, ma neanche Zuccatelli mi sembra che sia calabrese. È di Cesena. Appunto, e quindi poteva svegliarsi prima Spirli, ma quello che gli dà fastidio è quando dice missionari africani, è che Strada è uno, come è noto, che è andato in Afghanistan, in Africa, a fare ospedali, si sentono trattati come i paesi dove è andato, poteva dire missionari afghani. Terzo personaggio del giorno, fammelo dire, Berlusconi, perché guarda che intorno a Berlusconi si sta sviluppando una tensione politica non indifferente, perché innanzitutto la sinistra lo accoglie a braccia aperte e si può vedere da epifenomeni. Negli ultimi due giorni è stato prima da Fabio Fazio accolto come se fosse Romano Prodi, ecco, quasi con un'emozione, le lacrime agli occhi. Poi è andato da Giovanni Floris, idem con patate, accolto come un vecchio saggio, una grande figura della sinistra italiana, e ha ricevuto anche i complimenti, qua ci vogliono sempre i virologi, di Ilaria Capua, che l'ha additato ad esempio. Poi Zingaretti dice che bisogna, non in una lettera, lo dice, sì, in intervista, questa volta bisogna scrivere insieme, sì, insieme a lui la legge di bilancio. Poi il governo fa una norma che lo protegge da Vivendi in una trattativa di cui sarebbe complicato parlare, ma del resto i nostri ascoltatori l'ascoltano. Insomma, c'è l'aria di un grande movimento intorno a Berlusconi, e la Lega si è arrabbiata da morire, ha votato contro, si è astenuta contro la norma che lo protegge su Vivendi. Anche questo è conflitto di interessi, all'incontrario, cioè sì, quando tu vuoi attirare Berlusconi nella tua area politica gli fai una norma a favore, e secondo me il conflitto di interessi è valido anche quando te lo fanno gli altri, sono convinto. Sì. Senti, Paolo, però io ti vorrei portare, scusami, dato che oggi è il giorno dei nostri tormentoni, perché sono, le sardine sono ovunque, persino Massimo Grabellini sul Corriere della Sera raccontando che ormai sono state abbandonate, poverine, e altri, ecco, li prendono in giro, ma hai sentito Santori, gli hai dato delle indicazioni precise? Sono loro, sono i marziani a Roma. Dunque, com'è la storia? 14 novembre, fra due giorni è il loro compleanno. Vogliono fare grandi feste in piazza e tutti, con la scusa del virus, gli dicono: no, state a casa, non vi vogliamo fra i piedi. Ormai con le sardine c'è un dileggio e una... Tutti li hanno dimenticati, li invitano poco alle trasmissioni televisive, appunto Santori, così, quindi fammi spendere una parola, ci hanno fatto sognare per un mese di novembre, dicembre, ancora gennaio, poi... Sono spariti. Com'è, come non è? Dove siete? Sai come cominciarono a sparire? Andando a casa di Benetton, così ci ricolleghiamo all'inizio, facendo delle foto fatte, credo, da Oliviero Toscani, di grandi abbracci con Benetton, e il pubblico della sinistra disse: ma come, andate a casa a festeggiare, a fare una cosa nelle ville dei Benetton, cioè nelle ville riconducibili a quel Castellucci di cui all'inizio, vada retro. Da lì è cominciato un declino, non ne hanno azzeccate moltissime, non ne sono più usciti. Però sono stati loro i primi a suggerire di mandare Strada ad affiancare Zuccatelli, sono stati loro. Aspettiamo la risposta di Strada, intanto, che ci dica. Vedremo. Se va il quale non ha ancora detto niente di... il quale non ha ancora detto niente va a colonizzare la Calabria. Gino Strada colonizza la Calabria, missionari africani. Paolo, ci sentiamo domani, grazie, ciao. Mattino. Alle 8:36 minuti, dunque, parliamo di autostrade. Come sapete, ieri mattina sono scattati gli arresti, e tra questi c'è stato quello dell'ex amministratore delegato Castellucci. L'inchiesta è quella che riguarda le barriere antirumore che per 60 chilometri su 60 chilometri di autostrade sarebbero state messe, secondo l'ipotesi dei magistrati, sarebbero state messe male, sarebbero state messe quelle sbagliate e sarebbero state messe in maniera pericolosa, e questo anche secondo le perizie. E l'ipotesi dei magistrati è che il motivo per il quale è arrivato l'arresto è che Castellucci abbia continuato ad operare dall'esterno di Autostrade per cercare di inquinare le prove e coprire le tracce su questa vicenda. Il punto, come potete ben immaginare e come ben sapete, ne abbiamo parlato poco fa con Paolo Mieli, è anche politico, perché da mesi ormai è in corso la trattativa tra il governo e Atlantia, appunto per la cessione di Autostrade, dopo che l'ipotesi di una revoca vera e propria della concessione per il momento si è bloccata. La trattativa è tra Cassa Depositi e Prestiti e due fondi con Atlantia, perché Cassa Depositi e Prestiti e questi due fondi acquistino Autostrade. Buongiorno a Giancarlo Cancelleri del Movimento 5 Stelle, vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Benvenuto Cancelleri. Buongiorno a voi. Allora, posto che ovviamente questa è un'inchiesta ancora in corso, questi sono degli arresti, bisognerà vedere che cosa succederà, se ci sarà giudizio e cosa succederà in giudizio, però che lettura ne dà innanzitutto? Ma è chiaro che il lavoro della magistratura lo lasciamo alla magistratura, mi consenta però di valutare quelle che sono state le intercettazioni di ieri, cioè le parole dei soggetti. Quando qualcuno si permette di dire che i cavi del Morandi sono corrosi e l'altro gli risponde con, diciamo, una battuta romana che non ripeto ovviamente per una questione radiofonica, e poi gli dice me ne vado, vuol dire che evidentemente c'è qualcuno che sta pensando di poter fare con i beni dello Stato da concessionario quello che vuole, in barba alla sicurezza, in barba alle manutenzioni e tutto quanto. Quello che è accaduto ieri è la riprova che mesi e mesi del Movimento 5 Stelle e anche di questo governo, che hanno detto che ovviamente è venuta meno la serietà della gestione, quindi la manutenzione, quindi è venuta meno la sicurezza, alla fine hanno avuto la prova definitiva che queste persone hanno agito secondo schemi che non hanno nulla a che fare col buonsenso, ovviamente. E sono arrivati ovviamente ieri gli arresti, ma sono arrivate purtroppo anche quelle vergognose parole che abbiamo un po' letto tutti poi alla fine, che riguardano sia il ponte Morandi ma anche le barriere, perché delle barriere dicevano ad esempio che erano attaccate col Vinavil, cioè per capire come i prodotti che utilizzavano per andarle ad installare fossero davvero di scarsissima qualità. Ascolti Cancelleri, è vero anche che Autostrade ha fatto fuori gran parte, mi ha messo fuori dalla gestione gran parte delle persone coinvolte in queste inchieste. Beh, avranno anche messi alla porta. C'è da dire una cosa, che tutto quello che sta avvenendo fuori è merito di questo governo, perché abbiamo messo in piedi linee guida per la sicurezza delle gallerie, dei viadotti, per la sicurezza di ogni centimetro di autostrade in concessione e non, e abbiamo attivato una serie di controlli molto stringenti e asfissianti, forse è giusto il giusto termine da utilizzare, e questo ha portato alla luce tutte quelle che sono state le non corrette azioni che tutti i concessionari hanno fatto. In questo caso ad esempio abbiamo visto come sulle gallerie, sui viadotti e su tante altre questioni ASPI fosse assolutamente fuori dalle norme che poi alla fine abbiamo stilato. E questo perché? Perché nessuno mai gli aveva detto di fare controlli, nessuno mai li aveva controllati per vedere se avevano fatto le manutenzioni. Questo governo ha messo in riga subito dopo il ponte Morandi, si è messo al lavoro, abbiamo stilato queste linee guida e finalmente li abbiamo messi con le spalle al muro. Oggi però nessuno di loro può venire a fare lezioni di moralità dicendo che, io ieri ho letto le dichiarazioni molto gravi, perché quando sminuisci e dici beh però si trattava soltanto di 60 chilometri, anche se fosse soltanto un metro. Però questo si riferisce al comunicato di Autostrade di ieri, Cancelleri? Certamente. Mi riferisco proprio a quello, anche se fosse soltanto un metro. Il fatto che tu hai utilizzato, cioè quelle intercettazioni di ieri, al di là poi delle parole, danno uno spaccato ben chiaro. Queste persone si sono intascate per intero il malloppo dei pedaggi e non hanno mollato neanche un euro per fare le manutenzioni e quindi garantire la sicurezza. E questa è la gravità della circostanza. E non dà possibilità di parola a nessuno in questo caso. Devono stare solo zitti. Cancelleri, questa vicenda della revoca della concessione sta ed è diventata, per tutte le complicazioni che conosciamo, una telenovela infinita, della quale l'ultimo atto, l'ultima puntata non è stata ancora scritta. Come dicevamo, c'è questa trattativa in corso tra Atlantia, la Cassa Depositi e Prestiti, che non si è ancora conclusa, c'è stato un riavvicinamento. Ci dà una scadenza finale? Ma io credo che a fine di questo mese, entro il 30 di novembre, Aspi abbia un momento di confronto suo interno e penso che parleranno ovviamente dell'ultima proposta che Cassa Depositi e Prestiti ha fatto all'azienda. È chiaro che questa trattativa non può andare all'infinito. Cancelleri, mi scusi, entro quando volete una risposta da Autostrade per l'Italia? Ah, guardi, forse per me e per il Movimento 5 Stelle entro stamattina. È chiaro che in un governo di coalizione ci facciamo piacere anche i tempi degli altri, però a questo punto io credo che entro quest'anno si debba prendere una decisione, ma non fosse altro perché dobbiamo dare anche una risposta al Paese. Qui c'è da sancire un concetto: gli imprenditori seri, capaci, rispettosi dei beni dello Stato e della sicurezza dei cittadini sono i benvenuti in Italia. Se riusciamo a decidere di far rispettare le regole ad Aspi, mandiamo un segnale molto positivo a tutti questi imprenditori seri, che in giro ce ne sono parecchi, e questo però deve stare a noi. Ho letto dichiarazioni di parte della maggioranza stamattina molto importanti e che mi rassicurano, e quindi le ribadisco e le faccio mie. O si chiude entro quest'anno questa vicenda, oppure diversamente si procederà alla revoca, perché lo ricordo, è ancora sul tavolo del Presidente del Consiglio quell'atto di revoca, non si è mai estinto e non ha mai perso efficacia, rimane lì dormiente, perché noi speriamo di poter portare a casa una trattativa mettendo alla porta finalmente i Benetton e quindi depurando quella che è una società Aspi che di per sé come contenitore non ha alcuna colpa, e facendo entrare Cassa Depositi e Prestiti, tutti quelli che invece in maniera nuova vogliono affrontare questa nuova sfida. Diversamente, se non avverrà questo, se non si metteranno d'accordo e soprattutto se non verranno rispettati gli accordi sottoscritti a luglio, procederemo con la revoca. E la revoca porta a cosa? La statalizzazione, cancelleri? No, la revoca porta al commissariamento della società e alla messa a bando della concessione. Non vogliamo statalizzare 3.000 chilometri di autostrade, questo è banalmente l'opposizione attacca il governo in questa cosa. Noi vogliamo, lo ripeto di nuovo, avere a che fare con imprenditori privati seri, però, che vogliono investire in maniera seria e che vogliono essere rispettosi. Se questo avviene, ovviamente lo Stato fa lo Stato, si mette a disposizione e chiaramente fa anche una trattativa seria attraverso un bando di gara europeo, attraverso tutta una serie di circostanze che devono però garantire manutenzioni, sicurezza e soprattutto il giusto guadagno a chi vuole investire. Quindi esclude cancelleri che appunto lo Stato possa entrare direttamente in autostrade, posto che con Cassa Depositi e Prestiti un pochino, però che lo Stato possa entrare direttamente in autostrade, che magari ci possa essere un intervento del MEF che appunto possa essere statalizzata. Questo lo esclude totalmente, cancelleri? Lo escludo. Oggi noi con ANAS gestiamo più di 8.000 chilometri di autostrade, gestiamo parecchie migliaia di chilometri di strade statali e provinciali, però il senso di quell'autostrada lì e comunque il senso in generale delle autostrade in concessione non è quello di statalizzarle. Noi vogliamo metterle nelle mani di persone che in maniera seria vorranno fare. L'articolo 35 del milleproroghe che dà la possibilità di temporaneamente revocare una concessione, darla in mano ad ANAS, poi però prevede anche la messa a bando delle nuove concessioni, e noi come governo ovviamente, avendo fatto quella legge, intendiamo anche rispettarla. Non avviene un esproprio di una concessione, avviene la revoca, perché dobbiamo sancire il diritto e soprattutto dobbiamo sancire quello stato di principio che deve far rispettare a tutti le regole. In quel caso mi pare che le regole non siano state rispettate. Gli arresti di ieri confermano ancora di più una volta che non ci avevamo visto male e che invece abbiamo sempre detto il giusto. Grazie Giancarlo Cancelleri, viceministro delle infrastrutture e dei trasporti, per essere stato con noi. Buona giornata, una breve pausa e poi parliamo della pandemia. Mattino. Buongiorno e benvenuta a Stefania Salmaso, epidemiologa. Dal 2004 al 2015 ha diretto il Centro Nazionale di Epidemiologia, Sorveglianza e Promozione della Salute dell'Istituto Superiore di Sanità. Nel 2015 poi le ha lasciato l'Istituto Superiore, però epidemiologa di fama. Buongiorno professoressa. Buongiorno, Salmaso. Buongiorno. Benvenuta. Senta, mi aiuti, perché no, le dico perché i dati che stiamo vedendo in questi giorni sembrano indicare una certa stabilizzazione, e lo dicono anche dall'Istituto Superiore, lo dicono un po' tutti, e poi mi ritrovo il Messaggero che mi apre col professor Ippolito che ci dice che a Natale, col Natale, c'è il rischio di una terza ondata. Ci aiuti ad orientarci, professoressa? Allora, è molto presto per capire se effettivamente ci sia una piccola flessione dei contagi, della diffusione dei contagi. In realtà quello che ci dicono i dati messi uno accanto all'altro, ci dicono che fino a qualche settimana fa la curva, ormai tutti quanti hanno imparato questo termine, cresceva con una progressione geometrica, quindi un ritmo esponenziale. Adesso si è leggermente piegata, il che vuol dire che il numero di nuovi casi che noi troviamo ogni giorno non è in proporzione sullo stesso andamento così progressivo. Questo però ancora non vuol dire che sia un risultato buono da parte che sia un risultato, un effetto delle contromisure adottate, perché è molto presto. In realtà quello che si teme, ne abbiamo bisogno, perché questi punti che non stanno sulla linea così esponenziale sono ancora pochi, sono un paio, due settimane forse. In realtà la seconda metà di ottobre in Italia sono stati diagnosticati 300.000 nuovi casi, una cifra enorme, quindi abbiamo molti elementi negativi. Questa leggera flessione ci fa ci dice che potrebbe essere che cominciamo a vedere un calo. In realtà l'alternativa molto brutta è che in realtà il sistema è sovraccarico di nuovi casi, e che quindi diminuisca la nostra capacità di identificare i casi precocemente. Ricordiamoci che nella casistica osservata fino a 3 settimane fa noi avevamo solo un terzo dei casi che li trovavamo perché si presentavano con sintomi, mentre i due terzi erano trovati praticamente asintomatici, perché li intercettavamo con sistemi di screening, con il rintraccio dei contatti dei casi infetti. Quando la maggior parte invece, quando abbiamo moltissimi casi sintomatici, il sistema non ce la fa più, salta andare tutto, a cercare anche il rintraccio. E quindi non voglio dire che sia saltato tutto, però in alcune zone del paese sicuramente questo sistema comincia a essere meno efficace. E lo vediamo dai dati anche dell'Istituto, perché la quota di casi identificati per attività, per esempio di rintraccio dei contatti, è passata da più del 30% al 20%. Quindi effettivamente siamo meno bravi. Ricordiamoci che i casi che ci vengono segnalati dal sistema sono qualsiasi persona infetta, non necessariamente deve avere sintomi, quindi eravamo tranquilli fino a un certo punto della nostra capacità di intercettarli, erano tutti più giovani, adesso si sta alzando l'età ci sono più casi identificati perché hanno sintomi, quindi le buone notizie le dobbiamo avere, sono relative. Professoressa Salmaso, la vorrei portare, visto che appunto un epidemiologo si occupa molto di numeri, la vorrei portare proprio sui numeri, e sono i numeri che arrivano dalle regioni, sui quali, come sa lei, c'è un dibattito enorme e c'è un problema enorme. Sono i numeri che poi vanno a alimentare i 21 indicatori, i quali poi decidono in sostanza se una regione diventa rossa, arancione o gialla. Sono dati, da quel che capiamo, sporchissimi, nel senso che alcuni arrivano in ritardo, non arrivano tutti contemporaneamente, non sappiamo esattamente le regioni quali dati stiano fornendo, di che data, quanto corretti, eccetera eccetera, e questo mi sembra un problema notevole. Io non sarei così pessimista. questo sistema e sono dei dati autoriferiti alcuni sono obiettivi, però questo sistema è in piedi dalla fine di aprile. Questo sistema ha dei 21 indicatori, non tutti hanno lo stesso peso, qualcuno ha detto sono troppi, non si possono prendere decisioni con tutta questa mare, ma infatti non tutti gli indicatori hanno lo stesso peso, non tutti vengono presi in considerazione per decidere le contromisure in ogni regione. Questo sistema è stato messo in piedi all'epoca ad aprile per decidere chi doveva uscire dal lockdown, perché si è detto se la regione dimostra che è in grado di avere pochi casi ma anche di contenere eventuali nuovi incrementi, quindi ci sono molti indicatori ad esempio di processo su quello che loro fanno, è chiaro che un'informazione di questo tipo la può dare solamente la regione, se che mi deve dire quanto si sta dando da fare per cercare i casi e poi anche su quanti posti letto ha a disposizione ancora, e sono state stabilite delle soglie oltre le quali scattano delle allerte. Questo sistema appunto è in vigore dai primi di maggio, è andato avanti per 24 settimane nella tranquillità di tutti, anche se l'istituto continuava a fare il monitoraggio e mandava le allerte e le comunicava senza dire esattamente, comunque le mandava una informativa per ogni regione sui suoi dati. Sì. Quello che è successo è stata l'assenza di confronto reciproco tra le regioni. Quindi ognuno navigava per i fatti propri. Quando alla fine il governo ha preso contromisure ed è uscita una tabella in cui le regioni si sono viste l'un l'altro, allora è successa la bagarre, perché si è certo. creata una sorta di classifica e quindi si è incominciato a mettere in dubbio quello che si osservava, ma per 24 settimane nessuno aveva detto niente e le regioni sapevano ognuna la propria situazione. Io penso che forse una maggiore diciamo così condivisione fin dall'inizio avrebbe aiutato a guardarsi l'un l'altro, ma anche a guardare i dati se c'era qualcosa che suonava strano, perché quando tutti li vedono sono più controllati. Professoressa, abbiamo 30 secondi, secondo lei ci vuole un lockdown totale? Il lockdown che ci si prefigura, l'Italia sta rapidamente colorata e in effetti la pandemia corre, non è quello di marzo e aprile, perché la zona rossa della Lombardia, dove per esempio adesso abbiamo la Lombardia, la Val d'Aosta, non blocca tutte le attività produttive come invece abbiamo fatto durante il periodo passato. Ci vorrebbe qualcosa come marzo, professoressa? No, quello penso che stiamo cercando di scongiurarlo il più possibile. Forse l'Italia potrebbe andare in un sistema in cui diverse zone chiudono, diverse aprono, ma non si blocca la produttività totale del paese. Perché quando è stato abbiamo visto, proprio da un punto di vista economico, è stato molto efficace, ma nessuno dei paesi europei in questo momento se lo può permettere di nuovo e nessuno l'ha adottato con lo stesso rigore con cui l'hanno adottato gli italiani. Quindi speriamo che ognuno capisca, non prenda sotto gamba, perché veramente qua se ci chiudono in casa è semplicemente per costringerci a rispettare l'imperativo del rispettate il distanziamento, mettetevi le mascherine possibilmente efficaci, efficienti, non usate le stesse mascherine da 2 mesi. E mantenete il distanziamento, sì. arieggiate i locali, perché è tutto lì. Io non capisco perché ci dobbiamo chiudere in casa per questo. Quindi, in qualche modo, se ognuno di noi si facesse anche carico di questo, forse si potrebbe migliorare. Grazie, grazie per essere stata con noi, l'epidemiologa Stefania Salmaso. Peter Bescapè in regia, Giorgio De Luca in assistenza in redazione, Alessandro Marco Tulli, Gloria Guerrero, i nostri autori, Margherita Ine e Francesco Ciaraffo. A domani alle 6:30. Ciao.